Letture di Radio 24. Addio a uno dei geni del Made in Italy. Sergio Pininfarina è morto ieri nella sua casa torinese. Cavaliere del lavoro, figlio dello storico carrozziere Giambattista Pinin, Sergio Pininfarina era nato a Torino l'8 settembre 1926 e dal 1956 era stato a capo dell'azienda di famiglia, per poi diventarne, negli ultimi anni, presidente onorario. Per Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, se ne va un simbolo del Made in Italy. Da figlio del padrone avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto di saper fare cose utili, autonome e soprattutto consone al suo eventuale talento. Così aveva detto il padre a Sergio Pininfarina, affidandogli l'incarico di occuparsi della Ferrari, che per lui era stato come toccare il cielo con un dito. A Sergio era così toccato, assumendo nel 1956 il timone dell'azienda, il compito di coniugare la singolare progettualità creativa del padre con un'impostazione tecnico-ingegneristica in un grande stabilimento, inaugurato nel giugno 1958, che segnò il passaggio da una produzione artigianale a quella industriale. Da allora, lungo è stato l'elenco di vetture della Pininfarina, che hanno riscosso dovunque notevoli successi per il loro singolare equilibrio tra funzionalità meccanica, eleganza del design e qualità estetiche. D'altronde sono risultate d'avanguardia alcune soluzioni tecnologiche che hanno consentito, come diceva Sergio, di innestare una marcia in più rispetto ad altri costruttori, a cominciare dalla galleria del vento che permise dal 1972 di migliorare le prestazioni delle vetture in fatto di resistenza aerodinamica, rumorosità e stabilità. Ma Sergio non è stato solo un capitano di industria alla guida negli anni successivi di un gruppo pluridivisionale e multinazionale, tale da annoverare fra i suoi clienti General Motors, Honda e Peugeot. Dal 1978, durante l'offensiva del terrorismo rosso, assunse, a rischio della vita, la presidenza dell'Unione Industriale di Torino e l'anno dopo, convinto che la sorte dell'Italia fosse anche legata al risanamento dei conti pubblici, sbarcò a Strasburgo, eletto al Parlamento Europeo per il Partito Liberale, sostenendo l'adesione del governo allo SME. Fu così un corollario di questo suo impegno nell'associazionismo imprenditoriale e a favore degli ideali europeisti, la sua elezione nel maggio 1988 alla presidenza di Confindustria, un mandato che esercitò con vigore e lungimiranza. Dietro l'apparenza di una persona dai tratti affabili, si celava infatti un uomo di scorza dura, fermo nelle sue convinzioni, quanto risoluto a metterle in pratica. Nel 2005 la nomina a senatore a vita. Quanto alla sua ultima battaglia, quella che l'aveva portato nel 2001 a presiedere la commissione italo-francese per la realizzazione della Torino-Lione, seguitò a sperare di poterne vedere la conclusione anche dagli scranni di Palazzo Madama. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Valerio Castronovo, Pininfarina, genio dell'auto e gentiluomo europeista, pubblicato dal Sole 24 Ore di oggi, mercoledì 4 luglio.